Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema che fa sempre molto discutere, quello della laicità. E anche questo libro che vi presento sicuramente darà luogo a molte polemiche, alcune sono già iniziate. Il libro è di un laico insospettabile, uno studioso di sinistra che vuole mettere in guardia i suoi compagni e amici laici sui rischi di un'esasperazione polemica contro la religione. L'autore è Giancarlo Bosetti, il libro si intitola Il fallimento dei laici furiosi, come stanno perdendo la scommessa contro Dio, è pubblicato da Rizzoli, 202 pagine, 13 euro. Certamente è una bella provocazione questo libro per i laici. Bosetti naturalmente non si è convertito, non condivide molte posizioni della Chiesa e dell'attuale pontefice, prende le distanze dai laici che a destra hanno riscoperto la religione come Giuliano Ferrara o Marcello Pera. Detto tutto questo, però, Bosetti non si riconosce nelle posizioni dei laici che, come scrive lui stesso, non hanno e non promuovono una cultura dell'accoglienza dei credenti sulla scena pubblica e nella vita politica perché non pensano che questo sia un problema importante. Bosetti prende atto che in realtà c'è un ritorno al sacro e alla religione e lancia la sua sfida, accettare l'idea che le società democratiche libere accolgano la religione come una sfida positiva alla politica, come una sua integrazione e forse qualche volta anche un corredo morale della cultura di chi governa, capace di moderare in mancanza di meglio eccessi, esclusivismi, abuso di privilegi. Fin qui Bosetti, le sue posizioni, dicevo, faranno discutere, hanno già fatto discutere, ha cominciato Eugenio Scalfari qualche giorno fa a lanciare le sue bordate e quindi sentiamo da Giancarlo Bosetti che cosa si aspetta con questo libro. Buongiorno a Giancarlo Bosetti. Buongiorno a voi. Professor Bosetti, questo suo appello ai laici, ai quali naturalmente appartiene anche lei, perché riscoprano la religione, diano un senso anche alla loro contrapposizione a chi è religioso, è abbastanza strano nel panorama intellettuale e culturale italiano. Come mai ha sentito l'esigenza di questa missione nei confronti dei laici italiani? Ma guardi, io è un appello e anche una critica, perché io mi sono reso conto in questi anni che questa conflittualità guelfo-ghibellina, lasciamo stare a chi conviene, ma comunque è oscura a una percezione realistica di quello che accade, dei reali rapporti che si possono costruire tra gente di fede e non credenti. C'è una sovradeterminazione ideologica nella ricerca del conflitto, diciamo pure da entrambe le parti, però l'onere per i laici è maggiore, perché i laici non hanno una pretesa di verità, perché questa è dei credenti, di coloro che hanno la fede in una verità rivelata, quindi sopra le altre. I laici illuminati dovrebbero distinguersi proprio per la loro capacità di percepire che stiamo entrando in un'epoca che è in primo luogo di ritorno e di fatto di crescita della religione nelle società contemporanee e anche di una crescita plurale delle religioni. Questi fenomeni che sono indotti dalla globalizzazione, sono indotti da tante ragioni, fanno sì le immigrazioni, le comunicazioni più frequenti, i collegamenti istantanei con realtà lontane e diverse, eccetera, eccetera, fanno sì che le religioni siano anche la veste che assumono le differenze culturali. Quindi io spingo i laici a affrontare un capitolo nuovo, largamente nuovo in Europa, quello di avere a che fare con una pluralità di presenze, di culture, di fedi, di religioni, di identità diverse. Ecco, questa è la mia critica. Li vedo poco capaci di farlo, li vedo capaci di fare solo il vecchio mestiere di vedere nella Chiesa monopolistica, cattolica, ex monopolistica, se vogliamo, in Italia, il nemico da combattere. Ma in questo io trovo molto un surrogato, la politica ha bisogno del nemico e qui vedo, così come in altri casi il nemico è magari il comunismo che non c'è più, per molti laici il nemico automatico che organizza le idee intorno a qualunque cosa è la Chiesa Cattolica, le ingerenze delle gerarchie vaticane. E infatti lei fa un riferimento a questo nuovo termine che si sta diffondendo non soltanto in Italia, cioè del laicismo, dei laicisti contrapposti appunto ai laici. Sì, i laicisti qualche volta si vogliono si scrollano di dosso questa parola, come se, perché dicono è un artificio retorico che usano i clericali contro di noi. Devo dire che non, invece la parola ha ragione d'essere, perché io cerco di mettere in chiaro anche le cose dal punto di vista della terminologia. Una cosa è laico in quanto aggettivo, termine che si riferisce a tutto quello che non è della Chiesa. Un'altra cosa è laico quando si dice qui siamo riuniti tra laici e cattolici, è un altro significato che vuol dire non cattolico o non credente, è un significato perfettamente legittimo. Poi c'è il significato di laico, che si riferisce a chi crede come me nella distinzione, come tanti per nostra fortuna, nella distinzione tra la sfera della Chiesa e la sfera dello Stato, tra la sfera che non vuole più il potere temporale, diciamo, di un'entità spirituale o clericale. Ma poi c'è un'altra accezione di laico, che diciamo è un quarto significato, sono i laici, coloro che ritengono che le religioni siano dannose e che sia bene che si arretrino e che stiano confinate nella sfera della coscienza, nella sfera privata, perché sono dannose nella vita pubblica, nella sfera pubblica. Per esempio Rusconi, uno studioso che io stimo, uno storico molto preparato, però ritiene che le religioni possano essere ammesse nella sfera pubblica, il che è ovvio. Sarebbe come dire, siamo d'accordo che chi vuole può fare una processione, insomma, per la via del paese, ma non nel discorso pubblico, cioè non hanno legittimità a parlare di argomenti della legislazione, e questo è sbagliato. Questa io direi è una posizione laicista. Senta, lei pone due problemi nel suo libro, mi pare. Il primo è quello, fra l'altro qui riprende uno studioso tedesco, chiedendosi se lo Stato liberale sia sufficiente a se stesso. E il secondo aspetto, di cui ha fatto anche un cenno, è che la religione, appunto, un discorso religioso serve in un dibattito civile, insomma la religione in realtà serve. E anche questi mi sembrano due aspetti abbastanza innovativi nel dibattito sul laicismo italiano. Sì, io credo che ci voglia, diciamo, il coraggio per i laici di dire che la religione serve nel discorso pubblico, nel dibattito pubblico, su tutti gli argomenti, i principali che riguardano la vita, la morte, il mondo. Serve per una ragione, perché è come se il paesaggio culturale si è come disidratato, si è come rinsecchito, è privo di idee, c'è una potente crisi ideologica, c'è stato un collasso delle ideologie che erano un modo per tenere insieme, per dare coerenza e motivazioni a discorsi generali, era un modo in cui la gente si interessava del mondo. Adesso una concezione della società liberale basata puramente sull'autonomia individuale, che è un grandissimo valore, io sono favorevole ai diritti soggettivi, ai diritti individuali, al diritto di scelta delle donne in caso di aborto, eccetera, del diritto di scegliersi la vita sessuale che si preferisce e così via. C'è un però una concezione della società basata esclusivamente sui diritti individuali e priva di elementi coesivi, e quindi viene in evidenza il fatto che le religioni, e insisto sul plurale, hanno una dotazione di buoni argomenti per occuparsi del prossimo. Le religioni hanno questa dotazione di capitale sociale, di capitale coesivo. Le persone religiose si interessano generalmente di più degli affari pubblici, e quindi non c'è da stupirsi che si senta di più la loro voce nelle discussioni sulle grandi questioni, sulle grandi opzioni. Come mai? Quando scopriamo che sono i vescovi quelli che parlano di più di immigrazione, di bot people che affogano nei nostri mari e così via, come mai? Bene, grazie a Giancarlo Bosetti, autore del Fallimento dei laici furiosi. Grazie a voi. Una riflessione speculare a quella di Bosetti è quella di uno studioso svizzero, Felix Moser, che è un teologo protestante. La testimonianza è contenuta nel libro Chi osa dirsi cristiano? È pubblicata da Claudiana, 96 pagine, 9 euro, tradotto da Sabina Baral. In qualche misura speculare, dicevo, perché questo libro vuole offrire invece strumenti ai cristiani per partecipare al dibattito pubblico, per argomentare la propria fede rispettando la libertà di tutti. Scrive infatti il pastore: i cristiani che professano una religione tollerante e rispettosa della libertà altrui non sanno più come esprimere la loro appartenenza cristiana prendendo le distanze dai discorsi estremisti e irrazionali. Quindi, come vedete, in fondo lo stesso desiderio di portare il dibattito fra credenti e non credenti su una base di ragionevolezza e di rispetto reciproco. E per rispondere a questa domanda l'autore fa 21 domande le cui risposte vogliono lanciare una sfida al teologicamente corretto, come è stato scritto, presentando il Dio dei cristiani come un Dio che si sottrae, scrive, al nostro tentativo di dominio su di lui, e che cercano di cogliere, le 21 domande, l'essenza della religione attraverso il significato delle feste e delle ricorrenze nelle quali si manifesta Dio, e quindi Natale, il Venerdì Santo, la Pasqua, l'Ascensione e la Pentecoste. Due grandi papi che furono molto attenti a questi temi sono stati Paolo VI e Giovanni Paolo II. Del primo esce una biografia molto completa che ci fa riscoprire quello che fu certamente un grande papa e un grande intellettuale. Il libro è di Andrea Tornielli, un grande vaticanista, e si intitola Paolo VI, l'audacia di un papa, pubblicato da Mondadori, 722 pagine, 28 euro. Tornielli dice che Montini fu un papa trascurato, criticato, frainteso, vittima anche di molti cliché che l'autore smonta con molta efficacia, illustrando una lunga ed efficace opera del grande pontefice, e raccoglie le sue osservazioni intorno ad alcuni temi cruciali che hanno segnato la vita di Paolo VI: l'esperienza in curia, la politica, il concilio, l'insegnamento sociale, le riforme e infine l'impegno per la pace. L'altro papa lo troviamo nel libro di Antonio Socci, dedicato al successore di Paolo VI, quindi Giovanni Paolo II. Il libro si intitola I segreti di Karol Wojtyła Rizzoli, 236 pagine, 18 euro. Socci qui vuole spiegare tanti eventi apparentemente inspiegabili in realtà, che illustrano la forza delle esperienze mistiche vissute dal papa polacco, la cui vita, ci spiega l'autore, fu dominata da segni e profezie, come le chiama, che Socci appunto ripercorre e ricostruisce. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso parliamo di giornalisti e incontreremo alcune delle grandi firme che ci hanno accompagnato o che ci accompagnano tuttora sui giornali italiani e non solo. Cominciamo con Ettore Mo, uno dei grandi inviati del Corriere della Sera, autore di reportage dalle zone più calde del pianeta. Il libro che pubblica si intitola Lontani da qui, storie di ordinario dolore dalla periferia del mondo, è pubblicato da Rizzoli, 176 pagine, 17 euro. Con questo libro di Mo andiamo in Afghanistan, Nicaragua, Liberia, Sri Lanka, Cambogia, Perù, Venezuela, Bolivia, Messico e Cuba. In un viaggio che, definisce lo stesso autore, rappresenta una lunga e estenuante escursione lungo la faccia buia della terra per conoscere i drammi più oscuri dell'umanità. Conosceremo così o recupereremo il ricordo di tanti focolai di guerra e di sofferenza dove talora riesce ad affermarsi una scintilla di umanità come quella sulla quale Mo si sofferma nella sua tappa afghana e che presenta in queste righe che adesso vi propongo. Per chi voglia documentarsi in fretta sulla barbarie dei talebani, basta una visita all'ospedale ortopedico della Croce Rossa Internazionale di Kabul, dove è concentrato un esiguo campionario degli oltre 40.000 mutilati afghani, vittime della loro scellerata dittatura. Uno di loro, Chulam Farok, racconta che lo arrestarono nel 1999 e dopo averlo addormentato gli amputarono senza ragione la mano destra e la gamba sinistra, rimpiazzate l'una e l'altra dagli arti artificiali che 3 mesi dopo Alberto Cairo, direttore dell'istituto dal 90, gli aveva riattaccato. Cairo, poco più che cinquantenne, piemontese della provincia di Cuneo, che ho più volte incontrato nei miei pellegrinaggi in Afghanistan, non è un medico, anche se tutti lo chiamano dottore. Sarebbe a ogni modo estremamente riduttivo liquidarlo sbrigativamente come fisioterapista, data l'importanza e l'impatto che il suo centro ortopedico ha avuto ed esercita tuttora non solo sulla capitale, ma sull'intera società afghana, afflitta dalla guerra. Dopo Kabul, altri centri per programmi di riabilitazione sono stati aperti a Mazar-e-Sharif, Herat, Jalalabad, Gulbar e Faizabad, ospitando un totale di 76.000 pazienti, con un aumento annuo di circa 6.000 persone, straziate, oltre che nei conflitti a fuoco, dalle mine antiuomo disseminate ovunque. Altri dati informano che ogni anno vengono costruite circa 15.000 gambe e braccia artificiali. C'è poi la fitta schiera di paraplegici, colpiti alla spina dorsale e immobilizzati per la vita. Ciò che trovi, varcato il cancello del centro, non evoca affatto l'atmosfera brechtiana dell'opera da tre soldi, con la sfilata degli zoppi al proscenio. Al contrario, ti senti come attorniato da una scolaresca indisciplinata, con giovani, meno giovani e anziani che avanzano, talvolta letteralmente saltellando sulle stampelle, mentre altri, incollati alla sedia a rotelle, si incrociano e si rincorrono chiacchierando ad alta voce. Più risate che lamenti o imprecazioni. Si rasenta quasi l'allegria. Divertente nel libro di Ettore Mo è la descrizione dell'inizio della sua carriera di inviato. All'inizio, al Corriere della Sera, Mo si occupava di tutt'altro, faceva una carriera molto più tranquilla, quella del critico musicale, e all'improvviso fu catapultato dal suo direttore in una zona calda, l'Iran di Khomeini. Da lì sarebbe iniziata la sua carriera di inviato. Sentiamo come ricorda Ettore Mo un suo collega, anzi quello che fu il suo vice direttore al Corriere della Sera, un altro grande giornalista, Nino Milazzo. Nulla mi appaga di più che inventare un buon reportage e affidarlo alla persona adatta. Qualche volta queste scelte si rivelano fonte di preoccupazioni. Per esempio, dopo aver organizzato un servizio di Ettore Mo in Afghanistan, trascorro settimane di ansia perché di lui si perde ogni traccia. Ma quanta gioia quando una sera finalmente lo sento al telefono. Mi chiama da una località che mi è impossibile decifrare. Sta bene. È stato sulle montagne con i Mujahideen che combattono contro gli invasori sovietici. Racconterà tutto in uno dei suoi magistrali servizi che lo hanno consacrato come uno dei più affascinanti e coraggiosi inviati di guerra. La stessa situazione si ripete quando, ancora Ettore Mo, si reca in Perù perdendosi sugli impervi percorsi andini, dove operano i guerriglieri di Sendero Luminoso, protagonisti dell'ultima sfida rivoluzionaria maoista. Per circa un mese restiamo senza notizie di lui, finché apprendiamo che è stato fatto prigioniero dai guerriglieri e rilasciato, Dio sa come. Queste righe sono tratte dal libro di Nino Milazzo, Un italiano di Sicilia, pubblicato da Bonanno, 286 pagine, 18 euro. Questo libro è l'autobiografia e la storia professionale, non solo, di un grande giornalista che si è diviso fra la sua città, Catania, e Milano. E ripercorre il libro di Milazzo, in pratica, gran parte della storia del giornalismo italiano da un osservatorio autorevole, con grande partecipazione agli eventi che descrive e con una certa amarezza verso l'evoluzione, o meglio dire involuzione, della professione e del paese, che Milazzo continua a osservare con passione e con preoccupazione. Quello di Milazzo viene definito da Merlo una sorta di ossessione, quella di chi non si sposta strisciando, scrive Merlo, e anche in chiesa davanti a Dio preferisce restare in piedi e mai in ginocchio. L'ossessione si intreccia, anzi è segnata dalla passione per la sua Sicilia ed è capace di dare vita a una esemplare esperienza nel mondo giornalistico, di cui testimonia questo libro la capacità sempre più rara di coniugare passione civile e grande capacità professionale. È stato anch'egli una grande firma del Corriere della Sera, per poi seguire Montanelli al Giornale, e di cui è diventato anche direttore dopo Indro Montanelli, Mario Cervi, che con Luigi Mascheroni pubblica da Mursia Gli anni del piombo, l'Italia fra cronaca e storia, 240 pagine, 17 euro. Anche Cervi racconta gli esordi della sua carriera che, come sempre avviene in Italia, fu avviata grazie a una raccomandazione, scrive lo stesso autore. E da qui un lungo viaggio nel giornalismo e nella storia italiana, una carriera importante che ci permette di ripercorrere un pezzo della storia del nostro paese, di incontrare Indro Montanelli, di cui Cervi fu uno dei collaboratori più fidati anche nella redazione delle famose storie, salvo poi la rottura quando Montanelli decise di dare vita al nuovo giornale dopo aver concluso l'esperienza al Giornale. Anzi, nella appendice al libro troviamo lo scambio di opinioni fra lo stesso Montanelli e Cervi sull'abbandono di Montanelli e soprattutto sulla decisione pubblicizzata di Montanelli di votare per il centro-sinistra alle elezioni politiche di quegli anni. Sentiamo dal libro di Cervi queste righe che propongono un tema e un aspetto della professione giornalistica che considero ancora molto attuale. È molto più facile scrivere di paesi che si conoscono poco. Lo rilevava con acutezza Luigi Barzini Junior nel suo fortunato libro Gli Italiani. E dunque il paese del quale è più difficile scrivere è il proprio. Per gli altri, in particolare per i paesi di cui si ha un'idea sommaria, si va per approssimazioni, luoghi comuni, letture. Schematizzare è semplice. Ce ne accorgiamo quando gli stranieri scrivono di noi. Sono legati a cliché logori. Perfino il mandolino è l'immigrante meridionale di un tempo. Chi scrive del proprio paese conosce tutte le sfaccettature di un'umanità variegata. Sa per diretta esperienza quanti fatti contraddicano la vulgata corrente. Gli italiani sono allegri? Mica tanto. Cantano bene? Ma. Sono buoni? A Scampia non si direbbe. A volte ero sconfortato dalle esigenze d'approssimazione che il giornalismo comporta, incentivate dai diversi direttori che si innamorano di una qualsiasi bufala propinata da un qualsiasi lancio d'agenzia e vorrebbero che la bufala venisse ampliata. Non parliamo poi del settarismo politico che si inseriva in alcuni servizi e che sopraffaceva con clamori isterici ogni tentativo di ragionamento. A un altro mostro sacro del giornalismo italiano è dedicato il libro Con Oriana, avrete già capito di chi si parla. Gli autori sono Daniele Di Pace e Riccardo Mazzoni, che furono molto vicini entrambi per ragioni professionali a Oriana Fallaci. Il libro è pubblicato dalle Lettere, 166 pagine, 12,50 euro. E la dimestichezza appunto dei due autori con Oriana Fallaci permette di raccogliere due testimonianze ricche anche di immagini su questa grande giornalista di cui pochi giorni fa abbiamo ricordato il terzo anniversario della morte. In particolare il libro si sofferma proprio sugli ultimi anni di vita della Fallaci, quelli che furono segnati dal successo travolgente del saggio che scrisse sul Corriere della Sera, La rabbia e l'orgoglio, che fra l'altro ricompare proprio in questi giorni ripubblicato da Rizzoli, il famoso appello che fece la grande giornalista in difesa del sistema di valori del mondo occidentale che poi avrebbe caratterizzato tutte le sue ultime battaglie. Il confettino. Abbiamo parlato di reportage di grandi giornalisti, vi propongo un reportage particolare, quello che ha scritto Beatrice Alemagna. Il libro si intitola Nel paese delle pulcette, pubblicato da Faidon, 46 pagine, 9,95 euro. Il viaggio, questo, si svolge in un vecchio materasso che ci farà scoprire personaggi coloratissimi, frutto della matita della stessa autrice. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona settimana.